24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Non c'è accordo, ma si tratta. Il tris diplomatico Merkel-Putin-Hollande parla per 5 ore. Merkel e Hollande vogliono convincere Putin a trovare un piano accettabile per tutti. Vogliamo stabilire la sicurezza in Europa con la Russia, non contro la Russia. Ma la Russia deve dare il suo contributo nella crisi ucraina, che non può essere risolta con mezzi militari. Non è certo che ci riusciremo, ma è nelle intenzioni mie e di Hollande provare a farlo. Credo che l'uso di più armi non porterà al progresso di cui l'Ucraina ha bisogno. Putin, forte delle vittorie ottenute in battaglia dai separatisti, offre la possibilità di sganciarsi da Washington, sempre più incline a soccorrere militarmente l'Ucraina. Obama per il momento aspetta qualche giorno, lasciando spazio all'iniziativa di pace franco-tedesca. Bisogna comunque fare presto, perché in Ucraina orientale si continua a morire. Oltre 5.000 finora le vittime, e col passare dei giorni si rischia una catastrofe umanitaria. Penso che questa sia una delle ultime possibilità, e questo è il motivo per cui abbiamo intrapreso questa iniziativa. Perché se non siamo in grado di raggiungere non un compromesso, ma un accordo di pace e duratura, noi sappiamo perfettamente che scenario si prospetta. Ha un nome, si chiama guerra. Professor Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera. Professor Romano, ma gli americani davvero vogliono la guerra? Obama no. Ma Obama non sta facendo la politica estera degli Stati Uniti. Siamo alle prese con una grande potenza in cui non sappiamo esattamente chi faccia la sua politica estera. Obama di certo no, perché deve tenere conto del Congresso, e il Congresso considera la politica interna più importante della politica estera. Ecco, ma in ogni caso sarebbe una guerra tra chi? Perché anche questo non è chiaro. Beh, per l'appunto non sappiamo. La grande preoccupazione è che Obama a un certo punto non riesca a controllare i suoi falchi. Però io constato una cosa che mi è parsa in questi giorni molto interessante. È la prima volta che vedo una netta differenza tra la politica estera degli Stati Uniti e quella dell'Unione Europea, in quanto rappresentata dalla Merkel e da Hollande. Per la prima volta non parlano lo stesso linguaggio. Infatti, ecco, l'incontro tra... perché mentre, diciamo, da una parte gli americani spingono perché la NATO si allarghi a est e minacciano di dare armi, anche forse armi nucleari, all'Ucraina, l'Europa no. È una provocazione quella degli americani solo, o c'è qualcosa di più? Io credo che stiamo assistendo a un psicodramma di politica interna americana. Ripeto, non sono convinto che gli Stati Uniti siano addirittura così irresponsabili da immaginare la consegna di armi, addirittura nucleari, all'Ucraina. Mi sembra totalmente inimmaginabile. Ma si sta svolgendo all'interno degli Stati Uniti una lotta fra i falchi, i quali vedono in questa faccenda la possibilità di dare un colpo decisivo a Obama, il presidente che hanno maggiormente odiato in questi ultimi anni. Ecco, ma professor Romano, tra Obama e la Merkel, al di là della forma, l'incontro è stato cordiale oppure duro? Lei ha parlato di divergenza, ecco, mi sembra chiarissima questa. Sì, certamente, ma non dimentichiamo che in questa faccenda Obama è, per così dire, il vaso di coccio in qualche modo. Ma direi amnetico, forse la parola che lo definisce meglio, perché continua a dire che la possibilità di dare armi non è esclusa, ed evidentemente non può non dirlo, perché se dicesse armi no, non ne daremo mai, il Congresso gli salterebbe addosso. Quindi è costretto ad adottare una linea titubante di fronte alla quale la Merkel ha fatto quantomeno buona figura, perché aveva le idee abbastanza chiare. Ecco, però l'Europa che interessi ha a seguire davvero gli Stati Uniti nella corsa verso la guerra? Nessuno interesse? Nessuno, non ne ha nessuno, perché dopotutto, voglio dire, la Russia rappresenta un investimento di lungo respiro per i rapporti europei, un grande mercato, comunque vada, in questi giorni certamente promettente, e poi uno straordinario deposito di idrocarburi. Non si vede davvero perché i rapporti dovrebbero essere cattivi, quando, se veramente vogliamo fare una riflessione, siamo stati noi, o piuttosto la NATO, di cui noi siamo membri riluttanti, a estendere le sue frontiere sino ad arrivare all'interno della vecchia Unione Sovietica, ma davvero immaginiamo che gli Stati Uniti accetterebbero il Messico membro di una alleanza militare estranea ai loro interessi? Appunto, e quindi l'allargamento a est della NATO è una provocazione in sostanza. Vede, si continua a dire in questi giorni che Putin è responsabile di avere modificato le frontiere dell'Europa centro-orientale, le frontiere di un paese dell'Europa centro-orientale, vale a dire l'Ucraina, di averlo fatto unilateralmente. E la modifica delle frontiere politico-militari dell'Europa attraverso l'allargamento della NATO non è altrettanto pericoloso, altrettanto arbitrario? È altrettanto provocatorio. Ecco, ma esiste un'identificata lobby, lei dice, chi vuole punire Obama in un certo senso, ma è soltanto una questione di politica interna questa escalation verso la guerra degli Stati Uniti? Ma la politica interna americana gioca un ruolo importante in questa faccenda, anzitutto perché Obama è diventato, come dire, la bestia nera di una certa parte della società politica americana, e poi perché effettivamente la politica estera americana è sempre stata condizionata dalle lobby nazionali. Certo. Noi sappiamo per nostra esperienza che a un certo punto la lobby italiana, alla fine, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ha avuto un'importanza decisiva nello spingere gli Stati Uniti ad adottare nei confronti dell'Italia una politica positiva. Certo. Beh, adesso accadono cose simili, la lobby polacca per esempio, le lobby baltiche che sono anche quelle importanti oltretutto perché hanno un ruolo nella società politica americana interessante, ecco, indiscutibile. Ecco, professor Sergio Romano, però chi preme e vuole, come dire, orientare gli Stati Uniti verso la guerra, preme naturalmente intanto perché le sanzioni siano più forti, ma l'Europa e l'Italia non hanno nessun interesse a accettare queste sanzioni. Perché dovrebbero farlo? Cioè in cambio di cosa? Certamente non dovrebbero farlo, oltretutto perché le sanzioni hanno certamente un obiettivo nella logica dei falchi, vogliono in qualche modo creare una situazione in cui il disagio economico della società russa provoca un cambio di regime. In altre parole, le sanzioni sono un'arma micidiale nelle mani di chi vuole usarle in questa direzione, perché tendono a trasformare la Russia in un paese con un grosso punto interrogativo, perché nessuno sa che cosa accadrebbe il giorno in cui Putin venisse sbalzato di sella, e noi dovremmo forse desiderare una Russia disordinata, no, una Russia in preda al caos? Ecco, ma sbaglia chi pensa che gli Stati Uniti in realtà una strategia ce l'hanno, vogliono un'Europa debole, incerta e divisa nei confronti della Russia. Ma non so se quella sia la principale strategia degli Stati Uniti. Indubbiamente vedere l'Europa in difficoltà e l'Europa divisa non spiace agli Stati Uniti, perché rende, per così dire, più improbabile la possibilità che un giorno l'area atlantica diventi una sorta di condominio tra due grandi potenze. Ecco, professor Romano, ma l'ha detto già un po' prima, ma possiamo quindi dire che siamo di fronte a un primo e vero caso di rottura strategica tra Unione Europea e Stati Uniti? C'è una divergenza di fondo reale, di interessi e anche di visione? Si cercherà evidentemente di evitarlo, perché a un certo punto siamo abbastanza conservatori tutti quanti per evitare un futuro che non riusciremo a definire con precisione. A questo punto, paradossalmente, è l'amletico Obama che tiene insieme questo rapporto atlantico così turbato da queste ultime vicende. Obama, con le sue indecisioni, con le sue incertezze, con la sua reputazione di leader veramente democratico, rappresenta il collante residuo che in qualche modo permette agli europei e americani di non essere in disaccordo totale. Ecco, lei dice democratico, però quello in Ucraina è davvero un conflitto difficile da identificare come significativo per la difesa della democrazia. Beh, anzitutto l'Ucraina stessa, voglio dire, è un paese su cui è lecito avere qualche dubbio quanto alle sue istituzioni. Naturale. quindi anche questo dovrebbe in qualche modo renderci maggiormente prudenti. Ecco, ma non è che la Casa Bianca sta facendo una grave sottovalutazione dell'orgoglio russo, dell'orso russo? Vede, gli Stati Uniti soffrono di una sorta di sindrome, credono di aver vinto la guerra fredda. E naturalmente, esatto, essendo convinti di aver vinto la guerra fredda, ritengono che il vincitore abbia il diritto in qualche modo di gestire il dopoguerra. Il vecchio Bush, quello che fece l'accordo con Gorbaciov, aveva la testa sulle spalle, queste cose non le pensava e non le credeva. I suoi successori hanno tutti agito come se davvero gli Stati Uniti avessero vinto la guerra fredda e fossero quindi in grado di imporre allo sconfitto, al paese sconfitto, le loro regole. E quindi avessero l'obiettivo in fondo di umiliare la Russia in quanto sconfitta. E qui esiste un'altra componente, una vecchia componente psicologica. C'è in Europa un sentimento antirusso abbastanza diffuso, fatto di paura, fatto di disistima, fatto di sfiducia. È un sentimento che in qualche modo influenza la classe politica e qualche volta condiziona anche i rapporti internazionali. Però noi vediamo anche un sentimento progressivamente filorusso emergere dai nostri ascoltatori, se non altro. Ma certamente, perché naturalmente le sanzioni stanno danneggiando l'Italia, e non soltanto l'Italia, nell'area occidentale. E perché poi non bisogna dimenticare che noi abbiamo avuto un grosso partito comunista. Ora, all'epoca della guerra fredda, chi riteneva che il comunismo fosse una scelta sbagliata lo considerava un male per la società politica italiana. Beh, io con la distanza del tempo a questo punto osservo che quantomeno il Partito Comunista Italiano ha creato un'area di conoscenza della Russia un po' meno superficiale di quella che in qualche modo condiziona. Certo, ma alla fine, professore, un'ultima cosa, alla fine nel futuro dell'Europa sembra quasi che ci sia più Russia che è più vicina e con la quale abbiamo interessi fortissimi che gli Stati Uniti, che alla fine sono molto lontani. Ma questo lo penso, ma temo di non essere una maggioranza. 800 24 0024 numero verde, 349 238 6666, l'SMS. A volte penso che l'orso dovrebbe starsene tranquillo, a mangiare miele e frutta. Così verrebbe lasciato in pace. Ma non è così. Cercheranno sempre di incatenarlo. E una volta incatenato, gli strapperanno i denti e le unghie. Nonostante il muro di Berlino sia crollato, si costruiscono nuovi muri. L'espansione della NATO non è forse un muro? Un muro virtuale? I nostri partner si credono un impero, ci vogliono vassalli. Servirebbe invece un solo spazio umanitario di libertà e di commercio. Svevolod Dneti, corrispondente dell'Agenzia Nazionale Russa New Day News. Ecco, la Russia non cede, l'orso russo, come ha detto Putin, non bisogna sottovalutarlo, ma a Mosca ricomincia la paura di non trovare più da mangiare? Assolutamente non è così. È aumentata la produzione agricola locale, quindi i negozi sono pieni. Anzi, capitano dei casi curiosi, quando una nonnina, una pensionata, ha speso 4 pensioni mensili per comprarsi 320 kg di grano saraceno, adesso non sa che farsene, chiede all'amministrazione locale di riprenderseli, perché altrimenti se li mangiano i topi. Cioè, chi ha fatto scorte ha sbagliato? Certamente, sicuramente è così. Senta, ma il sentimento anti-americano è sempre più forte? Sì, sì, è molto acceso e sempre più forte. Americani vengono additati praticamente come colpevoli di tutti i mali che adesso affliggono i russi. Ma quali sono i mali? Se non c'è il problema del cibo, che mali ci sono? Ma aumento della retorica, le minacce, la paura di accerchiamento da parte delle basi NATO, la minaccia di escalation del conflitto in Ucraina con la vendita, fornitura presunta degli armamenti americani. Senta, ma la guerra del petrolio, il crollo del rublo e della borsa non stanno minando alla base l'economia russa? Ma è una cosa relativa, perché è vero che il rublo è crollato, però questo facilita adesso le esportazioni e il commercio con i paesi dell'Unione Euroasiatica, e quindi anzi Kazakistan, a quanto sembra, vorrebbe introdurre le barriere anti-dumping contro la Russia, ma perché le merci russe invadono il mercato. Ma il crollo del prezzo del petrolio è l'effetto di una guerra senza sosta tra russi e americani? Come dicono i russi, alcuni opinionisti almeno accreditano questa ipotesi, che sia la lotta invisibile, la lotta sotto il tappeto, che i sauditi avrebbero subito le pressioni degli americani per non ridurre la produzione del petrolio, e ciò che ha comportato, ma anche per colpire gli iraniani. Quindi in questo caso i russi e gli iraniani sono alleati o stanno nella stessa barca, e tutto ciò è una mossa politica per colpire economicamente sia la Russia che l'Iran. Ma Putin gode sempre di un sostegno pieno del popolo russo? Sì, non solo pieno, ma è monolitico. Praticamente adesso il consenso sta solo aumentando, ma in ogni caso la soglia del consenso è molto molto elevata. Alcuni opinionisti parlano di 60%, gli altri addirittura di 80%. Ma in ogni caso la Russia è sotto le pressioni, non cede. Ma qual è il clima finale? Si pensa davvero che sia possibile una guerra? Ma una guerra contro chi? Fra chi e chi? Perché questo non è chiaro a nessuno. Chi vuole la pace si prepari per la guerra, e quindi non è una guerra calda, ma molti opinionisti russi parlano del ritorno del clima da guerra fredda, quindi praticamente è un conflitto strisciante, e la Russia e i russi si sentono come se fosse una fortezza sotto assedio. Quindi l'ipotesi di una guerra guerreggiata non esiste? Non esiste proprio, non la vuole nessuno, anche se molti minacciano di farla scatenare. Tanto ci sono anche delle risposte parallele o trasversali, se vogliamo dire. Contro mobilitazione in Ucraina, Putin ha richiamato i riservisti per 2 mesi, ma nessuno prende questa mossa sul serio o come se fosse una vera e propria preparazione alla guerra aperta. Insomma, lei crede che la pace ci sarà? Un sì, accordo si farà? 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666. Gli sms molto interessanti, gli sms Lelio Vezzani, Luca, Silvana da Pisa. Sostanzialmente Michelangelo, si chiedono Merkel e Hollande, ma l'Europa dov'è? Ma il ministro europeo degli esteri che fa? Dorme Silvana? Ma il silenzio assordante della Mogherini, degli avversari, cioè una linea abbastanza univoca di reazioni dei nostri ascoltatori, Mario. Intanto, l'Europa dov'è? Perché effettivamente abbiamo visto la Merkel e Hollande andare da Putin, ma la Mogherini stavano su dove? Forse è perché sono i trattati bilaterali, sono gli stati che rappresentano, no. Però insomma l'Europa non fa l'impressione di esistere. Ma non esiste dal punto di vista diplomatico, l'Europa non c'è, questo è abbastanza chiaro a tutti e questa crisi lo ha ulteriormente dimostrato. Chi tratta sono le nazioni. Ma era un'occasione per affermare qualcosa? Eh? Beh sì, direi di sì, soprattutto nei confronti degli Stati Uniti. Kissinger diceva sempre, devo parlare con l'Europa. Qual è il numero di telefono dell'Europa? Quindi siamo ancora fermi là, in realtà. Posso dire un'altra cosa? La Mogherini avrebbe dovuto tecnicamente parlare, essere presente all'incontro. Non ci sono regole su questo. Voglio dire, tu ti stai confrontando con una nazione sovrana che è la Russia, e Putin probabilmente preferisce ascoltare, forse perché no, hanno anche più peso, Hollande e Merkel anziché la Mogherini, che in fondo rappresenta un consesso di nazioni che quando deve decidere all'unanimità, tra l'altro, basta che uno alzi il ditino e qualsiasi meccanismo decisionale si ferma. Il problema non è la Mogherini in sé, ovviamente, non è la persona, è l'istituzione che non funziona. Finché non c'è un'unione politica non voglio non rispondere solo a un nostro ascoltatore, un sms che mi rimprovera di non ricordare oggi le foibe. Noi abbiamo una puntata sulle foibe, credo che siamo stati i primi a Mixer a occuparci delle foibe. Stia tranquillo, faremo la puntata sulle foibe. Pietrangelo? L'Unione Europea non esiste, E Eduard Limonov, in un'intervista di qualche giorno fa sul Corriere della Sera, ha ricordato un fatto concreto, e cioè che la Russia è una nazione europea e che la Russia è il doppio di quanto possa essere perfino la stessa Germania, perfino la Francia, perfino quelle realtà statuali che, come ricordava Mario, hanno una voce in capitolo sicuramente molto più forte di quanto possa averla l'Unione Europea. Beh, certo. E questo episodio spiega definitivamente l'inutilità di un'istituzione che può baloccare e divertire soltanto un personaggio minore, quale può essere la Federica Mogherini di turno, o qualunque politico che si illuda di costruire un destino attraverso un ente inutile qual è l'Unione Europea. E poi ricordarci anche che i russi non sono facili da sconfiggere. No, su questo, cioè, vorrei dire sembra una cosa. Che ci sia, come dicevamo con Romano, una sottovalutazione della capacità dei russi di resistere, poi di avere, forza. Esistono due report che hanno scatenato un grande dibattito, li cito, chi vuole può anche scaricarli andando sul mio blog o su altri siti che li hanno pubblicati, ma quello di Brookings che consiglia a Obama di armare l'esercito di Kiev, e da lì è partito tutto il dibattito, in America si usa questo tipo di cose, non fai il think tank che produce un documento. E un altro invece molto interessante dell'Institute for the Study of War, l'Istituto per lo Studio della Guerra, dove al netto delle cose, diciamo, filoamericane che hai, figuriamoci, non c'è problema, però c'è un esame attento della strategia dei filorussi, che hanno una superiorità strategica schiacciante nei confronti dell'esercito di Kiev, tanto da ipotizzare che Putin, se dovessero fallire gli accordi di Minsk domani, la prima cosa che faranno i filorussi sarà avanzare ulteriormente, perché non hanno più ostacoli dopo la battaglia di Donetsk. Parliamoci chiaro. Io vorrei ricollegarmi a quanto diceva prima Sergio Romano nell'intervista con te riguardo alla presenza del Partito Comunista, del più grande Partito Comunista d'Occidente in Italia. Io credo che al contrario abbia preparato questa eredità del Partito Comunista in Italia il sentimento di russofobia. Tanto è vero, e lo ricordiamo, che dovette esserci un primo ministro ex comunista, quale Massimo D'Alema, per avallare i bombardamenti in Serbia. Tant'è vero che tutta la compagine culturale che fa riferimento al Partito Comunista è quella più ferocemente antirussa in questa fase. In questa fase, in questa fase è vero. Ecco, per chiudere c'è un ascoltatore, Danilo, che scrive: io condivido quanto detto da Gorbaciov tempo fa, la dissoluzione dell'URSS è stato uno dei più grandi errori del XX secolo. Il sentimento russo andrà sempre nella direzione del porre rimedio a questo errore. Sai cosa diceva Kipling? Kipling diceva: sciocco e colui che tenta di forzare l'Oriente. Mix 24. Mi ritorni in mente, bella come sei, forse ancora di più. Mi ritorni in mente, dolce come mai, come non sei. Sanremo? No, sono esami, sono giornate di esami queste, e qualcuno beve acqua dal pozzo dei ricordi, e quindi il ritorno della memoria porta e sveglia la luce in ognuno, e il filosofo oggi era stretto d'assedio dagli studenti indaffarati con le lezioni su Platone. Ma con i ragazzi si sono aggiunti poi anche gli adulti, quelli dell'età pericolosa detta età di mezzo, dove i ricordi sono ritorni. E se nel mondo incantato della perfezione c'è Eros, e questo lo spiegava il filosofo, arrivando sulla terra degli inciampi tutto il sentimento si trasforma in mancanza, e quel che manca, spiega il filosofo, è nella disperazione dell'assenza, e quindi diventa blasone di dolore. E questo spiegò il filosofo imbracciando una chitarra e spiegando Platone con Mogol e Battisti. Allora Mario, le bolle di oggi dove ci porti? In giro. Dai. Vatti a trovare qualcun altro da incastrare. Hanno fregato 11 bigliettoni al nostro corriere. È stato ripulito da due furbacchioni. Falli sistemare. Non sono così stupido da fregare i soldi a una banda. Non l'avrai fatta apposta. Io voglio fregare l'Omega. Lo devo mettere in ginocchio. Io non ho mai fregato. Devi tenere tutto in piedi anche dopo averlo spolverato, se non capisce che l'hai fregato. Ok, vabbè, questo era un bellissimo composizione, un mix della stangata e dei, diciamo così, delle conseguenze forse involontarie della stangata di Renzi ai suoi alleati pattisti e non pattisti dopo l'exploit del Quirinale. Noi dobbiamo parlare. Intanto oggi escono i dati sulla produzione industriale di Francia. Francia è già uscita, sono buoni, sopra le aspettative, quindi Hollande può anche sorridere. Regno Unito e Italia, vediamo che cosa succede col governo italiano. Sono molto importanti ovviamente per vedere come andrà il 2015. In ogni caso gli effetti della stangata ci sono, perché avete visto, il patto si è rotto, non era difficile prevederlo. Berlusconi e Salvini si sono riavvicinati, dunque Renzi deve vedere se ha i numeri, certamente li ha alla Camera, un po' più complicata al Senato, ma comunque ha pur sempre, diciamo così, un certo controllo. Oggi in aula si discutono e votano ovviamente le riforme istituzionali, cioè la legge Boschi. Vediamo cosa succede se l'esecutivo tiene così via. In realtà, riagganciandoci a tutte le cose dette e alla partenza sull'economia, il vero rischio è che in una situazione, diciamo, di condizioni molto favorevoli, Giovanni, perché abbiamo tassi più bassi della storia, le borse comunque vanno bene, una conflittualità sociale tutto sommato, voglio dire, abbastanza tranquilla, i prezzi energetici che sono crollati, beh, se tutto questo non viene accompagnato da riforme economiche per rilanciare la crescita, allora abbiamo veramente buttato un'occasione d'oro e io non lo vorrei, insomma. Salamini! Salamini di gente che va e di gente che viene, tolto un Matteo se ne trova un altro. Matteo Renzi lascia nei guai, i guai del Nazareno Berlusconi, e Silvio, preparando la rimonta, cerca l'altro Matteo. Salvini dunque vede il leader di Forza Italia d'Arcore, ma forte dei sondaggi mette un paletto a qualunque ipotesi di alleanza con il nuovo centrodestra di Angelino Alfano. Tutta la battaglia, insomma, quella che sarà la stagione d'inverno in attesa delle elezioni, sarà affidata alla sorte dei due Matteo. Il nuovo centrodestra è ben più che fedelissimo a Renzi. Secondo Vincenzo Danna, vi segnalo una deliziosa intervista a questo parlamentare del GAL sul Corriere di oggi a firma di Fabrizio Roncone, i capi bastone dell'NCD, Antonio Gentile e Guido Viceconte, sono più fedeli a Renzi che ad Alfano, e così più fedeli a Renzi che ad Alfano sono i deputati calabresi, i siciliani, poi ovviamente si sono aggiunti gli ex 5 Stelle e poi, come dice lui, gli incappucciati amici di Verdini, dice così, e poi ovviamente questo GAL, che è una sigla cuscinetto derivata dalla diaspora berlusconiana, dove ci sono molti siciliani e molti calabresi legati ai capi bastoni occulti, ma niente di criminale, per carità, è soltanto che siccome il furbo Matteo Renzi sta per varare il nuovo Ministero del Sud, tra un ponte sullo stretto e un asse Berlino-Palermo dell'alta velocità, insomma, c'è da divertirsi per tutti. Allora, la questione qual è? Che la gran parte dei parlamentari sta con Matteo Renzi. La gran parte dei parlamentari, diciamo, dell'NCD, di Forza Italia, del GAL, di AN, eccetera, eccetera. Ma l'elettorato con chi sta? Si vedrà. Con l'altro Matteo. E quello si vedrà. Con l'altro Matteo. So. E questo è troppo very well. Troppo very well. Troppo very well. Troppo very well. Troppo very well. Troppo. Mario, una bolla ancora? Ma sì, dai. Allora, questa è la sigla di Ender's Game, il gioco di Ender, e adesso vedrete perché l'abbiamo così evocato in questo frammento brevissimo. E un pilota su tre dell'Air Force americana guida droni. Quindi già questa è una cosa, diciamo, un certo cambiamento. Ma si sta rivelando un mestiere molto difficile, solitario, pieno di complicazioni. Pensa, Giovanni, un terzo dei piloti soffre di stress, di affaticamento cronico, il 17% è affetto da stress e la massa di piloti a disposizione sta calando in maniera drastica. È una brutta storia che però rivela quanto la fantascienza, ed ecco perché ho evocato quel frammento musicale, anticipi la realtà. Certo. Nel libro di Ender's Game, Orson Scott Card, che cosa fa? Prevede che i guerrieri perfetti del futuro siano i bambini che sono nati con i videogiochi, cioè una generazione completamente diversa, digitalizzata. Canzoniere! Scrivo sopra una stretta lista di carta che contiene una riga. Traccio i miei segni nella notte che è solida, contro l'una e l'altra coscia come un'asse inchiodata. Scrivo, rivivo, rimuoio. 800 24 00 24 per chi volesse rispondere. 349-238-6666. Un aiutino. Soldato, poeta, poeta, soldato, fatto cieco in un'azione di guerra, poi restituito alla luce. Insomma, più aiuto di questo. Vabbè, speriamo. Mix 24. Beh, andiamo con i nuovi mille. Dentro al cuore che la politica sia ancora un'occasione. Le difficoltà e gli ostacoli che sta incontrando l'Italia sono noti a tutti. Noi a Mix 24 raccontiamo anche storie di persone che riescono a superare la crisi con idee nuove e vincenti. Sono gli agenti del cambiamento, i nuovi mille. Uno di loro è Carlo Mancosu, 35 anni, sardo, laureato in lettere. Carlo, sei uno dei fondatori di Sardex, il primo circuito commerciale della Sardegna senza moneta. Cioè? Allora, Sardex è un sistema di compensazione che attraverso l'utilizzo di un'unità di conto digitale equiparata all'euro come misura di valore, ovvero un Sardex equivale ad un euro, permette alle aziende di farsi credito reciprocamente e quindi di comprare e vendere senza l'utilizzo di denaro corrente ma attraverso una moneta comunitaria. Carlo, ma l'unità di conto digitale quindi che cos'è? Cioè voi valutate il valore di un servizio, di un bene e così effettuate gli scambi? No, semplicemente le aziende danno un prezzo ai loro servizi, lo danno già in euro, lo stesso prezzo viene dato anche in Sardex e poi c'è un conto online che è esattamente uguale al conto ad un conto di online banking attraverso cui si possono fare le operazioni. Abbiamo poi un'app di pagamento, la carta di pagamento e le aziende possono operare attraverso questa unità di conto. Ma voi controllate il valore che la singola azienda dà al proprio servizio, per esempio? Ma Sardex è un vero e proprio mercato, quindi vige la regola della domanda e dell'offerta e qualora i prezzi non sono congrui non si riesce a vendere. In ogni caso le norme contrattuali prevedono che venga praticato esattamente lo stesso prezzo. Ma è una forma di baratto, diciamo, avanzato? No, il baratto è una cosa molto diversa. Innanzitutto nel baratto non interviene la fiducia, quindi non ci sono rapporti fiduciari. Dall'altra poi il baratto è il hic et nunc, quindi qui adesso ci scambiamo una cosa contro un'altra. Qua sostanzialmente le aziende vendono, in cambio vengono pagate con questi crediti che possono poi utilizzare da qualsiasi altro membro del circuito. Quindi il rapporto è multilaterale e multitemporale. Carlo Mancosu, ma perché le aziende entrano in questa rete commerciale? Le ragioni sono tante. Innanzitutto c'è un forte bisogno di fare rete, quindi di mettersi assieme e sostenersi a vicenda in questo momento di crisi. Dall'altra poi ci sono i vantaggi economici e finanziari, perché attraverso il circuito, come dicevamo, ci si riesce a finanziare attraverso la propria capacità produttiva inespressa. Mi spiego meglio, le aziende non lavorano al 100% del loro potenziale e quindi poniamo i tavoli di un ristorante, se io non vendo i miei pasti sostanzialmente sto pagando dei costi anche se non sto incassando nulla. A quel punto posso mettere a disposizione questo mio potenziale inespresso, incassare dei crediti e abbattere dei costi, le spese correnti. E quindi senza moneta favorite la crescita dei consumi, avete dei dati? Solo lo scorso anno abbiamo superato ampiamente i 30 milioni di euro di beni e servizi scambiati che non si sarebbero mossi per via della mancanza di liquidità. Parliamo di oltre 70.000 operazioni che vanno dall'acquisto di energia elettrica alla spesa al supermercato di ogni giorno, dalla riparazione delle auto. E quante aziende sono coinvolte? Per adesso? In Sardegna sono 2.500 imprese e da un anno abbiamo anche 1.000 dipendenti delle imprese che attraverso il circuito possono ottenere dei bonus e dei benefit. Questo chiaramente va a rinforzare il potere d'acquisto delle famiglie e quindi a creare ulteriore internalità positiva nel sistema. Mancosu, c'è qualcuno che sta replicando il progetto Sardex da qualche parte? Sono altre 7 realtà che hanno replicato in altrettante regioni d'Italia. Altrettante sono in trattativa e partiranno insomma quest'anno. Chi volesse sapere di più dell'esperienza Sardex può visitare il sito italiachecambia.org. 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666, l'SMS. Donato da Pescara, indovinato il nostro quesito. Donato, pronto? Pronto, sono buongiorno. Il buongiorno, canzoniere, buongiorno. Cos'era? Era il notturno di D'Annunzio. Giusto! Bravo! E il Trivelli! Giustamente, Pietrangelo diceva, o da Pescara o niente. No, ma la conoscenza del notturno è dovuta al fatto che lì c'è, io essendo medico, il rapporto tra il VAT e il medico, lui malato sul letto, quindi... E adesso dov'è? Dov'è lei? Donato? A casa? Sì. Sì, sono a casa. Va bene, grazie e bolla! Grazie. Allora, questo è l'attacco di Sirius, che non è un attacco di extraterrestri, ma è la musica di Alan Parsons Project. E per parlare di che cosa? È delle nostre automobili. Sai che il 100% delle automobili prodotte oggi sono a rischio di hackeraggio, Giovanni? Ah sì, addirittura. Fantastica. C'è un report del Senato americano che rivela questo e dice una cosa molto semplice, che essendo tutte le auto contemporanee connesse a wifi, bluetooth e cellulare, insomma, uno può tranquillamente impadronirsi dell'auto. Non ci credete? Il DARPA l'ha già fatto. Il DARPA è la divisione digitale del Pentagono, da cui è nata internet, e insomma l'hanno già fatto, lo stanno facendo. Vabbè, quindi, se vi si spegne l'auto in strada o non la trovate più la mattina, chiamate qualcuno che ve l'hanno hackerata. Salamino. Vivere ciò che si canta, cantare ciò che si vive. Felicità è un bicchiere di vino con un panino, la felicità. Stasera nei canali di diffusione della RAI andrà in onda il Festivallo di Sanremo. Meno male. E siccome Cancelletto l'Italia cambia verso, siccome Cancelletto l'Italia sta serena, siccome Cancelletto rottamato tutto fu, l'anno Felix di Matteo Renzi, parola di Albano perché lo dessi Albano, porterà serenità a tutti. Dopo le elezioni al Quirinale di Sergio Mattarella non poteva che essere nostalgia. Tutta quella democristianeria, tutta quella pantomima da panda grigia, do cappotto, dei dolcetti, delle suoline. Vabbè, l'Italia. Però dice Albano che un brano non ci sarà. Quale? Questo. Questo è il ballo del qua qua. Il papero che sa fare solo qua qua qua. Non ci sarà il ballo del qua qua, e Albano lo ha detto chiaramente, perché questo è un pezzo di denuncia politica e tutto si può dire di questa stagione eccetto che sia politica. Però io, nel buon nome di Leonardo Sciascia, avendo archiviato il ballo del qua qua, vi affido alla massima di Don Mariano. Sono pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi, già molti di più gli ominicchi. Sono come bambini che si credono grandi. Quanto ai ruffiani, stanno diventando un vero esercito. E infine, i quacquaracqua, il branco di oche. Accidente. Tra l'autunno del 42, anche l'avvocato Agnelli mi disse, non faccia a faccia, che lui non era un quacquaracqua, si definiva al contrario. Tra l'autunno del 42 e il febbraio del 43, nella Russia sudoccidentale si combatte una delle battaglie più cruente e decisive della Seconda Guerra Mondiale, è la battaglia di Stalingrado. Migliaia di uomini morirono sul campo, molti altri uccisi dal freddo, dalla fame, non fecero più ritorno a casa. Quello che abbiamo passato in questi ultimi giorni è indescrivibile, ma il peggio deve ancora venire. Una miseria indicibile, morte, distruzione. Le famiglie della maggior parte dei caduti non sono state nemmeno informate. Quindi, se non ricevete nessuna notizia, molto probabilmente significa che sono stato ferito, fatto prigioniero, o che sono morto per la fame o per il freddo. Mi dispiace se questa è diventata una lettera d'addio. Non so quanti giorni ci restino ancora. Ti amo troppo per vietarti di trovare un altro marito. Sei ancora troppo giovane per continuare la tua vita da sola. Ti auguro di trovare un altro uomo che ti dia la serenità e la felicità che io ho provato a darti. In questi miei ultimi momenti penso con gratitudine al giorno in cui ti ho conosciuto. Dopo il giornale radio, Marina Milone racconta la battaglia di Stalingrado, intervista Paolo Valentino, inviato a Mosca per il Corriere della Sera, e chiudiamo con la canzone di De Gregori, Vecchi Amici. Tu sei un ragazzo pulito, hai le orecchie piene di sapone, sarà per questo che non distingui più la regola dall'eccezione. Quando ritocchi la punteggiatura del tuo ultimo capolavoro, ti rivolti nella mala fede